Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Io fra poco vi parlerò dell'universo come computer, e tu, Chiara? Io di un centenario un po' particolare, un po' triste, vi parlerò della scomparsa di Marta. Vado a prepararmi. Bene. I nostri computer ci raccontano una storia, che sono figli di un computer più grande, l'universo. Uno stormo di 3 miliardi di colombe migratrici a terra copriva 2200 chilometri quadrati. L'ultimo esemplare è morto nel 1914 in uno zoo americano. Il motivo della scomparsa? L'uomo. Impianti cocleari, oralismo e lingua dei segni. Nuovi approcci complementari al problema della sordità. Nelle migliaia di apparecchiature elettroniche che circondano la nostra quotidianità ci sono tanti materiali preziosi. Sarebbe meglio non buttarli via. Ogni tanto qui a Mebius vogliamo affrontare degli argomenti difficili, e però lo facciamo con entusiasmo, sperando di portare a casa il risultato. Quello di questa sera è in apertura proprio di trasmissione, uno forse dei più difficili che abbiamo affrontato negli ultimi tempi. Vi presento subito i miei due ospiti. Giuseppe O. Longo, buonasera Longo. Buonasera. Ingegnere, matematico, docente emerito di teoria dell'informazione all'Università di Trieste, ma anche scrittore e drammaturgo, componente, diciamo, professionale interessante per questo tema. E poi anche Andrea Vaccaro. Buonasera Vaccaro. Buonasera. Filosofo e teologo, docente dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose I Galantini presso la Facoltà Teologica dell'Italia Centrale di Firenze. E partiamo da un vostro libro, perché questo è lo spunto. Il libro si chiama Bit Bang, è chiaro il riferimento al Big Bang di appartenenza astrofisica astronomica, ma qui il Bit Bang adesso vediamo, c'entra quanto mai con quello che vogliamo affrontare, perché c'è il bit come qualcosa, il bit quindi informativo, il bit, lo 01 che si usa nei computer, come qualcosa che sta probabilmente alla base di un funzionamento di fondo dell'universo. Vaccaro, incominciamo con lei. Allora, nella nostra storia come specie abbiamo inventato tante cose, alcune molto utili e semplicissime, non so, il portachiavi, altre come la ruota, insomma, che non è molto più complessa del portachiavi, però milioni, miliardi di applicazioni, quindi grandissime invenzioni. Poi a un certo momento è arrivato il computer. Forse non è una delle tante importanti innovazioni, strumenti che abbiamo inventato. Non è semplicemente questo. Sì, si può proprio dire che il computer sia diventato qualcosa di più. Addirittura nella cultura contemporanea il grande computer è diventato una metafora dello stesso universo. E ha preso il posto dell'universo grande orologio della fisica newtoniana e della filosofia che l'ha adottata. Ora è chiaro che le analogie non camminano con mille piedi, vuol dire, per cui non si deve certo cercare il mouse di questo grande computer dell'universo. Tuttavia è una immagine utile, perché mette a fuoco alcuni aspetti filosofici molto importanti della nostra visione del mondo, della visione del mondo della filosofia digitale, soprattutto ponendo delle differenze con la visione precedente, quella meccanicistica. Quella meccanicistica di grande tradizione, che poi nell'Ottocento ha avuto un enorme sviluppo. Ecco, lei citava filosofia digitale perché c'è un'attività di ricerca filosofica che si definisce appunto digitale, e certo che se parliamo di filosofia digitale vuol dire che siamo ben oltre un aspetto strettamente tecnico, no Giuseppe Longo? Ah, ma sì, sicuramente. Infatti il computer, che tutti conosciamo perché è una macchina che ci serve per fare i calcoli, per gestire gli impianti, per fare tante belle cose, e anche alla base dell'intelligenza artificiale, quindi di teorie che vanno ben al di là, diciamo, della pura quotidianità, Il computer è qualcosa che ci suggerisce anche appunto delle teorie filosofiche, teorie relative alla natura profonda delle cose. Ma la domanda di fondo è: il computer svela davvero la natura profonda dell'universo? Ci assicura cioè che tutto è informazione, computazione, algoritmo, che sono appunto la materia prima su cui vive il computer? Cioè è insomma una sonda che pesca in qualche modo nel mondo rivelandocelo, oppure si tratta di una metafora? Questo è il punto difficile che vorremmo riuscire a comunicare, un po' come in quei film, ne abbiamo avuto qualcheduno negli ultimi anni, quelli in cui c'è una porta, no, che da qui ci porta verso un'altra dimensione. Quello che voi suggerite è: forse il computer è una macchina che ci sta raccontando qualcosa dell'universo, l'abbiamo scoperta, ma ci sta raccontando qualcos'altro oltre il suo funzionamento. Ecco, questo è il suggerimento che sta alla base appunto della filosofia digitale e che ha a suo favore degli indizi che sono per esempio la meccanica quantistica, la quale ha rivelato la natura discreta della realtà profonda. Allora, proviamo però qui a dedicare un paio di minuti a questa cosa. Allora, la matematica continua è quella che forse, ecco, per rivolgerci a tutti i nostri ascoltatori, è quella raccontata dal famoso paradosso di Zenone, no? O dai numeri reali che sono infiniti, no? Non esiste la fine di un numero reale, cioè questa possibilità che la matematica maneggi degli oggetti infiniti. La matematica discreta è un'altra cosa. Esatto, cioè se noi prendiamo per esempio la teoria meccanica di Newton, quella è basata sulle equazioni del moto, che sono equazioni eminentemente continue, però se noi quelle equazioni andassimo a risolverle con carta e matita oppure oggi con il computer, dovremmo passare dal continuo al discreto. Sì. Quindi mentre la nostra impressione, come dire, primitiva, intuitiva del mondo è che il mondo sia qualcosa di continuo e quindi descrivibile con equazioni di tipo continuo, le famose equazioni differenziali, eccetera, eccetera, poi se noi andiamo in realtà a fare le cose, a fare i programmi che ci servono per risolvere quelle equazioni, dobbiamo trasformare tutto in discreto. Cioè voi dite il discreto non è un'approssimazione, è il mondo che è fatto così. Esatto, questo è quanto sostengono i filosofi digitali. E noi abbiamo una grande teoria, l'abbiamo detto altre volte in onda, come la meccanica quantistica, che ci dice, no, per funzionare questa teoria, ci dice che la realtà è fatta di stati separati, no? Quindi non c'è questo continuo, sembra un'assurdità, però poi i nostri computer, i nostri cellulari funzionano assolutamente con questa teoria. Ecco, però, Vaccaro, il titolo del libro, Bit Bang, no? Allora, il bit è anche l'unità di informazione di base, no? Sulla quale funzionano i computer, ma anche poi la teoria dell'informazione. C'è qualcosa anche che voi raccontate nel libro che riguarda l'informazione, la butto lì, quasi come una materia prima, la materia prima. Sì, si può dire senza dubbio che nella filosofia digitale l'informazione sia da considerarsi come il principio primo della realtà, l'archè. Mi pare, Longo, che qui l'universo, il mondo, insomma, è fatto di atomi, di molecole, di addirittura gas nei quali gli atomi non ci sono più, però tutto questo sta insieme perché c'è un'informazione che lo gestisce. E se si va in fondo alla natura dell'universo, beh, da una parte abbiamo l'informazione, cioè i bit discreti che in qualche modo tengono insieme le cose, dall'altra parte abbiamo le particelle. Allora il problema di fondo della filosofia digitale diventa: qual è il rapporto tra l'informazione e la materia? L'uno non vive senza l'altro, cioè materia senza, esatto, informazione, informazione senza materia non si danno, non, ecco, si darebbero. E quindi uno potrebbe dire c'è una triade, informazione, materia ed energia, che sono in qualche modo paritetiche fra di loro. Con queste cose che lei ci dice in conclusione, direi che lo smarrimento è programmaticamente realizzato. Allora, grazie per questo testo, Bit Bang, Giuseppe Longo, Andrea Vaccaro, grazie e buon lavoro. Buonasera. Grazie. Arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Era l'ottobre del 1813 quando l'ornitologo John James Audubon, in cammino verso Louisville, in Ohio, avvistò il primo stormo di colombe migratrici all'orizzonte. Gli uccelli migravano da nord-est verso sud-ovest. Si avvicinavano a una velocità impressionante. Agli occhi degli osservatori, la velocità poteva essere di 100 km all'ora. Presto, ogni angolo di cielo si riempì di colombe. In un istante, sembrò come se le tenebre cadessero sulla terra. L'impazzito e infinito frullare di ali tutto intorno a chi li osservava faceva perdere i sensi e dava una sensazione di vertigine. Audubon scese dal cavallo per non cadere in preda all'ipnosi di quello spettacolo, estrasse il suo taccuino e cercò di immortalare quel momento. I milioni di uccelli, forse miliardi, in volo intorno a lui. Contò gli stormi, 163 in 21 minuti, un'infinitesima parte di quella infinita marea di colombe che si spostavano allora senza soluzione di continuità dall'Ohio fino a scomparire all'orizzonte, verso i grandi boschi del sud-ovest. Come una corrente vitale, si buttavano verso il suolo, formavano linee e onde. Lanciatesi a precipizio, sfioravano il suolo con una rapidità impressionante, per poi tornare a risalire in alto, quasi perpendicolarmente, come a formare una colonna di uccelli. Tre miliardi di esemplari in un unico stormo. Una straordinaria peculiarità che faceva della colomba migratrice la specie di uccello più numerosa al mondo. Faceva, perché ora non esiste più. L'ultimo esemplare è morto 100 anni fa esatti, nel 1914, in uno zoo americano. Era l'unica testimonianza vivente di una specie, Ectopistes migratorius, portata all'estinzione dalla follia umana. Ermanno Bencivenga, filosofo dell'Università di California e autore di numerosi saggi, ha ricordato questa scomparsa in un recente articolo apparso sull'inserto della Domenica del Sole 24 Ore. Qui Bencivenga recensisce un saggio dedicato a Marta. Il titolo del pezzo è L'ultimo volo di Marta. Ma chi è Marta? Sentiamo Bencivenga. Marta è stata l'ultimo esemplare di colomba migratrice, una specie che si è estinta. Marta è morta quasi esattamente un secolo fa, il primo settembre 1914, allo zoo di Cincinnati, nell'Ohio. Faceva parte originariamente di una coppia, il maschio si chiamava George, un ovvio omaggio alla coppia fondatrice degli Stati Uniti, George e Martha Washington. George era morto più di 4 anni prima, per cui per più di 4 anni Marta è stata sostanzialmente l'ultimo esemplare di una specie ormai estinta. Una specie molto, molto particolare, straordinaria, 3 miliardi addirittura di esemplari in un unico stormo. Sì, la colomba migratrice era senz'altro l'uccello più abbondante nel continente nordamericano, forse addirittura sul pianeta. Era presente all'arrivo dei coloni bianchi e in una zona che sostanzialmente andava dall'Atlantico ai Grandi Laghi. I suoi numeri erano definiti da alcuni inimmaginabili. Si parla di uno stormo osservato nel maggio 1860 che secondo calcoli successivi doveva contenere 3 miliardi di uccelli. Quando scendevano a terra per nidificare occupavano aree enormi. La più vasta di cui si abbia notizia, che si formò nel 1871 in Wisconsin, copriva un'area di 2200 chilometri quadrati. Insomma, per dare un'idea, quasi un 2/3 della Val d'Aosta, direi, per dare un'idea italiana. Questo particolare stormo occupava 2/3 di una regione italiana. I, gli alberi letteralmente cedevano e si schiantavano sotto il peso di centinaia di nidi che le colombe ci facevano. Quando scendevano in una polla d'acqua per abbeverarsi, le prime ad arrivare letteralmente annegavano sotto il peso di quelle che le seguivano. Ecco, poi cos'è successo? È arrivato in qualche modo l'uomo e la follia umana, perché questa specie è completamente stata sterminata. Sì, appunto, quando nel libro che ho recensito ci si chiede che cosa è successo alla colomba migratrice, una delle persone citate risponde: noi siamo successi alle colombe migratrici, perché effettivamente gli esseri umani nel giro di pochi decenni, tutto sommato, parlavo di quello stormo del 1860 con 3 miliardi di uccelli, hanno letteralmente sterminato questo uccello, di cui appunto non esiste più alcun esemplare. Lei lo ha ricordato, nel 2014 ricorre il centenario della scomparsa dell'ultimo esemplare, quindi di Marta. Questo è un evento piuttosto sentito negli Stati Uniti, perché la specie chiaramente era endemica americana, e in qualche modo la si ricorda anche attraverso, l'ha appena accennato, un libro. Il libro è scritto appunto da una persona appassionata dell'argomento di zoologia, si chiama Joel Greenberg, si intitola Un fiume di piume attraverso il cielo. Ed è scritto con grande rimpianto, devo dire, cioè da una persona che veramente sente la mancanza di questo uccello, e sente molto e descrive molto anche la crudeltà, la sistematicità del suo massacro. Gli esseri umani si sono slanciati contro le colombe per i motivi più diversi, in qualche caso per sfamarsi, in qualche caso per difendere l'agricoltura da questi uccelli che veramente quando scendevano mangiavano tutto, in qualche caso per sport. Il tiro al piccione era uno sport molto popolare. Il massacro totale, lo sterminio delle colombe è stato possibile quando è diventato un'operazione industriale, perché finché la cosa si manteneva a livello locale, cioè una comunità magari al passaggio di uno stormo lo considerava quasi una manna dal cielo, tutti si armavano per abbattere il più colombe possibile. Nella seconda metà dell'Ottocento, con i mezzi come il telegrafo o il treno, diventati ovviamente molto comuni, appena uno stormo scendeva si avvisava telegraficamente l'intero paese, e arrivavano in treno letteralmente centinaia di professionisti che facevano questo di mestiere, cioè il loro mestiere consisteva nel catturare e uccidere il più colombe possibile. Le modalità di sterminio erano veramente potenti e spietate. Le colombe venivano uccise in tutti i modi, ovviamente i fucili erano il mezzo più popolare, poi c'erano le reti nelle quali spesso le colombe venivano attirate da un piccione di richiamo, ma poi venivano abbattute con bastoni, con pietre, a mani nude, perché qualche volta gli stormi passavano molto vicini a terra. In un caso riportato addirittura lanciandogli contro delle patate, venivano asfissiate con vapori di zolfo nei nidi, venivano bruciate. Tutti questi metodi contemporaneamente hanno portato infine all'estinzione. L'arrivo di uno stormo sulle pianure corrispondeva all'arrivo di centinaia di uomini. Così l'ornitologo J.J. Audubon descrive la scena terrificante di una di queste stragi. Quando si accesero le torce, lo spettacolo che si appalesò ai miei occhi era tanto incredibile quanto orrido. Gli uccelli colpiti si ammassavano a terra, intorno ai tronchi, formando grandi mucchi. Qua e là i rami cadevano per il peso degli uccelli posati, trascinandosi dietro alcune vittime. Tutto intorno a me c'era tumulto, furore e pazzia. Non si notava neanche più il rumore dei fucili. Mi rendevo conto che qualcuno aveva sparato, solo quando vedevo il cacciatore ricaricare il suo fucile. Nessuno si azzardava a entrare nel bosco. Tutti uccidevano dai margini. Anche i maiali erano ancora nei recinti. Il loro intervento era previsto solo per l'indomani. Il silenzio si reimpadronì dei boschi solo verso l'alba. Poco prima che il sole spuntasse, le colombe sopravvissute si levarono in volo, proseguendo la migrazione, mentre l'ululato dei coyote, dei lupi, ci ricordava che non eravamo gli unici predatori del bosco. A quel punto anche gli uomini osarono avventurarsi nel bosco. fra le colombe morte, quelle ferite, quelle moribonde, quelle mutilate. Gli uccelli vennero raccolti, messi in mucchietti ordinati, finché ciascuno si impadronì di tanti quanti ne potesse ragionevolmente accatastare. Poi si lasciarono liberi i maiali perché si nutrissero di quelli che rimanevano al suolo. Esistono ancora specie migratrici così straordinarie? Sentiamo Alessandro Montemaggiori, ornitologo della Sapienza di Roma. Sicuramente la colomba migratrice era un uccello straordinario. Straordinario sicuramente per le capacità di migrare in stormi così numerosi. Era un animale fortemente sociale, si muoveva lungo rotte predisposte, ben precise, rotte che purtroppo, diciamo, sono state conosciute poi dall'uomo e sono state utilizzate per contribuire allo sterminio di questa specie. Esistono altre specie che vivono in gruppi numerosissimi. Tra gli uccelli basti pensare al quellea africano, un piccolo passeriforme e granivoro che si muove in stormi anche di più di 1 milione di individui, o semplicemente, per venire a casa nostra, basti pensare allo storno, centinaia di migliaia di individui che si muovono tutti insieme per spostarsi dalle aree di dormitorio, di solito dentro le città, alle aree di alimentazione esterne, per cui diciamo non era un'eccezionalità tra virgolette quello della colomba migratrice. Ecco, l'eccezionalità è che purtroppo, insomma, non c'è più. I motivi li abbiamo capiti, insomma, la follia umana ha portato a questo. E invece quelli che ci diceva, soprattutto gli storni che noi conosciamo bene, lei usava il presente perché in realtà sono ancora così numerosi, o comunque col passare degli anni c'è stato un declino anche nelle popolazioni di questi uccelli? Ma il caso dello storno è abbastanza emblematico, perché per certi versi è un animale che storicamente, diciamo, si è diffuso dall'Asia minore, si è esteso, diciamo, grazie all'attività dell'uomo, perché è un animale che frequenta le zone aperte e quindi ha seguito l'uomo man mano che l'uomo disboscava e costituiva campi agricoli. Questo è un animale onnivoro. Mm-hmm. È un animale molto numeroso, è un animale che è stato diffuso dall'uomo in tutti i continenti, per cui è uno degli uccelli più comuni del mondo. Basti pensare che negli Stati Uniti è stato introdotto appena nel 1890 con un centinaio di individui, attualmente le stime parlano di 200 milioni di storni presenti negli Stati Uniti. Però è un animale che al tempo stesso sta mostrando la contrazione dell'areale, cioè la riduzione del suo spazio vitale, soprattutto in Europa. Il motivo per cui, per esempio, non si caccia lo storno, è vietato cacciare lo storno in base alle leggi della Comunità Europea, è proprio perché questo animale si sta rarefacendo nella parte più settentrionale del suo areale, per motivi legati anche in questo caso all'attività dell'uomo. Il cambiamento delle pratiche agricole, soprattutto della PACCIN, cioè la politica agricola comunitaria introdotta negli ultimi anni, ha determinato una rarefazione di questi animali che non trovano più l'habitat necessario per poter sopravvivere, per cui si assiste, soprattutto nel settentrione d'Europa, a una contrazione dell'areale. Ecco, questo è uno dei motivi, ma quali sono gli altri motivi che possono portare all'estinzione di una specie, di un volatile? Diciamo che possiamo dire che in realtà l'estinzione è un processo naturale. Ogni specie è destinata a estinguersi, così come ogni animale o organismo vivente è destinato prima o poi a morire. Il problema è che il tasso naturale di estinzione equivale a circa una specie ogni 100 anni, ecco, a livello globale. Noi li acceleriamo un po'. Noi siamo arrivati a moltiplicarlo per 1000, purtroppo. Ecco. Negli ultimi centinaia di anni noi abbiamo moltiplicato per 1000 questo tasso di fondo di estinzione, dovuto a una serie di fattori che sono principalmente, per gli uccelli, la perdita dell'habitat o la diciamo frammentazione degli habitat necessari, il cambiamento climatico che ha un effetto enorme sulle popolazioni di uccelli e di altri animali. Basti pensare che, per esempio, le popolazioni alpine o artiche stanno soffrendo moltissimo la restrizione dei loro areali di distribuzione, perché l'aumento delle temperature, diciamo, riduce la nicchia ecologica di questi animali, fino a farla scomparire in alcuni casi. Speriamo, insomma, di avere un po' imparato, ecco, dalle esperienze, seppur negative. Purtroppo temo di no, visto che negli ultimi 500 anni noi abbiamo perso 279 specie di uccelli. L'ultima addirittura pochi mesi fa, c'è un piccolo fringillide delle Hawaii scoperto appena nel 1974 e già estinto. Tanti americani in quel primo settembre del 1914 piansero davanti alla voliera vuota di Marta. Incommensurabili le lacrime versate in seguito per la scomparsa di migliaia di altre specie. Ma la lezione non l'abbiamo ancora imparata. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Qui a Mebius abbiamo già trattato il tema sordità qualche tempo fa in occasione di un bel documentario di una nostra collega Silvia Bencivelli, giornalista scientifica, poi di recente in relazione all'appuntamento che c'è stato a Roma sul linguaggio. Sì, magari possiamo ricordarlo, a quell'epoca parlavamo di un documentario che si chiamava Segna con me ed era incentrato principalmente sulla lingua dei segni. Sulla lingua dei segni. Poi invece a Roma si è parlato di linguaggio, sì, in generale, e abbiamo analizzato anche come il linguaggio dei segni abbia proprio tutta una sua autonomia e allo stesso tempo forti relazioni con il nostro linguaggio proprio dal punto di vista mentale. Oggi, Chiara? E oggi parliamo un po' dei diversi approcci di cui si è parlato a Roma nell'affrontare appunto la riabilitazione di persone affette da sordità e in particolare nei bambini, perché lì i risultati, insomma, come sentiremo dai nostri esperti, sono positivi, sono interessanti. Allora, intanto direi di dare il benvenuto a Francesco Pavani, buonasera. Buonasera. Lei è professore associato del CIMEC, Centro di Mente e Cervello dell'Università di Trento, e diciamo questo lavoro è stato fatto in coordinazione con il CNR e quindi abbiamo anche Maria Cristina Caselli. Buonasera. Buonasera. Lei è dirigente di ricerca presso l'Istituto di Scienze e Tecnologie Cognitive del CNR a Roma. Allora, vi chiederei, magari partiamo con la dottoressa Caselli che ci dà un po' l'entità di quelli che sono i numeri della sordità in Italia e anche quali sono gli approcci educativi. Beh, i bambini che nascono sordi o diventano sordi nei primi anni di vita sono circa stimati intorno all'1-1,5 per mille della popolazione dei bambini che nascono in Italia. La maggior parte di questi bambini, circa il 95%, nasce da genitori udenti, il che vuol dire che per questi genitori in molti casi l'evento della sordità del bambino è un evento del tutto inatteso. Solo il 5% dei bambini che nascono sordi nascono invece da genitori sordi essi stessi. Questo fa una grande differenza per i bambini. Nel caso dei bambini sordi, figli di sordi, questi hanno nella maggior parte dei casi la possibilità di acquisire fin dalla nascita una lingua che viaggia sul canale integro, sul canale visivo-gestuale, che è appunto la lingua dei segni, in Italia la lingua italiana dei segni o LISC. Diciamo che è l'unico modo appunto perché mamma, papà e bambino possano comunicare. Comunicare lo fanno in maniera naturale, per loro è la lingua della famiglia, la lingua che condividono. Certo. Il problema nasce nell'altra percentuale di bambini molto alta, quel 95%, che sono invece figli di genitori udenti. Come dicevo, in questi casi spesso la sordità è inaspettata e la diagnosi può arrivare in periodi anche molto diversi, a seconda spesso se sul territorio italiano esistono dei progetti di screening prenatale o precoce, e in alcune regioni esistono, in altre non esistono. Mediamente oggi i bambini sono diagnosticati tra i 5 e i 12 mesi di età, soprattutto in casi di sordità grave o profonda. La sordità è che più incide negativamente sull'acquisizione della lingua parlata. Qui diciamo c'è un po' un divario proprio di approccio. Sì, c'è un divario perché di fatto tutti i bambini sordi, figli di udenti vengono precocemente protesizzati nel giro di poco tempo subito dopo la diagnosi e avviati a percorsi di educazione al linguaggio. Questi possono essere di tipo prettamente oralista, vuol dire basati prevalentemente sul recupero della funzione uditiva, sulla lettura labiale, escludendo l'uso di segni e della lingua dei segni. Ci sono poi delle metodiche miste, quello che noi chiamiamo metodo bimodale. L'obiettivo del metodo bimodale è che il bambino raggiunga la competenza nella lingua esclusivamente parlata e scritta. I segni, che non è la lingua dei segni italiana, ma sono di segni che fanno parte del codice linguistico, ma sono solo il lessico, vengano usati a supporto dell'italiano, però la struttura grammaticale, la lingua che viene proposta al bambino è l'italiano, seppure utilizzando e alcuni segni della lingua dei segni. Ecco. Diverso è l'approccio bilingue. Che bilingue utilizza entrambi i metodi. Però io vorrei, qui c'è un passaggio fondamentale. Lei ha parlato di protesi. Chiederei a Pavani di parlarci di questo aspetto, che forse appunto credo che sia quello un po' più importante e di cui magari sappiamo meno. I cosiddetti impianti cocleari, che appunto vengono impiantati nei bambini, soprattutto sono delle neuroprotesi. Ecco, Pavani, se ci può spiegare un pochino come sono e che tipo di potenzialità hanno, insomma, non è che poi uno diventa udente improvvisamente quando viene fatto l'impianto. No, infatti, ma la prima cosa secondo me che va chiarita è il fatto che le protesi acustiche e gli impianti cocleari sono proprio due oggetti veramente molto diversi. La protesi acustica interviene laddove è possibile lavorare su un residuo uditivo, mentre l'impianto cocleare è quello strumento che viene utilizzato, ormai utilizzato a partire dagli anni 90 in Italia, quando invece nessun recupero è possibile attraverso una protesi acustica o comunque nessun recupero veramente funzionalmente utile. Lei, Pavani, definisce il residuo uditivo il fatto che ci possa essere, insomma, nell'orecchio qualche organo parzialmente funzionante, mentre invece ci sono dei casi in cui manca del tutto la sordità al 100%, no? E questa è la differenza. Esatto, il fatto che noi udenti percepiamo i suoni è perché abbiamo nell'orecchio interno delle cellule specializzate che fanno una trasduzione d'energia, cioè prendono l'energia che è il suono nell'ambiente, che è un'energia transitoria, la vibrazione dell'aria, e la trasformano in quello che è l'unico linguaggio che il nostro cervello è in grado di capire, ovvero impulsi nervosi. Se queste cellule sono andate danneggiate, non ci sono mai state o comunque non sono più lì per svolgere il loro lavoro, io non posso utilizzare delle protesi acustiche, perché ovviamente non c'è nulla che converte la vibrazione nel linguaggio che il cervello può capire. Allora vengono utilizzati gli impianti cocleari, che sono sostanzialmente degli elettrodi che vengono a sostituirsi a queste cellule recettrici per andare a parlare direttamente col nervo acustico mandando impulsi nervosi, quindi captano il suono nell'ambiente, lo trasformano attraverso una serie di trasformazioni molto sofisticate e lo restituiscono al nervo acustico sotto forma di impulsi nervosi. E quanto quindi sono sofisticati? Allora, sofisticati lo sono enormemente, peraltro, come dire, se confrontiamo gli impianti cocleari degli anni 90 con gli impianti cocleari di oggi, il divario è enorme, è veramente come pensare a un cellulare degli anni 90 e un cellulare di oggi, per avere un termine di paragone. Il punto che però va comunque compreso è che un impianto cocleare non è qualcosa che trasforma magicamente un bambino sordo in un bambino udente. Beh, almeno per due ragioni. La prima ragione è che la tipologia di suono che si sente attraverso l'impianto è estremamente ridotta, semplificata, diciamo, nell'ambito delle frequenze rispetto a quello che può offrire l'orecchio umano normalmente. Un'altra ragione è, per esempio, il fatto che la stragrande maggioranza delle persone che vengono impiantate riceve un impianto a un solo orecchio, e quindi è un po' come se noi andassimo in giro con un orecchio aperto e un orecchio tappato, no? Ecco, ma rimangono per esempio quei difetti tipici degli impianti classici, per cui se parlano molte persone non c'è la capacità di distinguere le diverse voci, c'è un rumore di fondo che non si riesce a gestire? Esatto, anche se ci sono alcuni avanzamenti anche in questa direzione, la capacità che noi abbiamo di come dire, percepire una scena acustica dove una persona sta parlando in un angolo, il telefono squilla da un'altra parte, eccetera. La profondità, diciamo, del suono. Esatto, la profondità del suono. Questo dipende strettamente dalla nostra capacità di localizzare i suoni nello spazio e anche nella capacità di come dire, riconoscere che i suoni hanno frequenze diverse, quindi il suono della voce maschile è diverso da quella femminile, posso concentrarmi sulla prima e ignorare la seconda, no? Ora, se l'impianto cocleare di fatto riduce questa percezione delle frequenze e rende, quando è unilaterale, estremamente difficile, se non quasi impossibile, localizzare il suono, ne consegue che già questa esperienza di ascolto sarà estremamente diversa, e quindi tutte le volte che la persona poi si trova in condizione di rumore, evidentemente farà molta fatica a beneficiare di questo dispositivo. Ecco, chiarito diciamo il contesto, a Roma avete discusso del fatto che appunto questi diversi approcci non siano uno meglio dell'altro o comunque alternativi, ma il fatto che siano complementari potrebbe essere in qualche modo positivo per il bambino. Caselli, infatti voi avete fatto studi su questo e avete avuto risultati buoni sui bambini. Noi abbiamo effettivamente osservato, abbiamo studiato vari contesti, sia bambini che impiantati precocemente, quindi con un impianto cocleare precoce, non erano esposti alla lingua dei segni, abbiamo verificato quali erano le loro competenze nell'italiano parlato, bambini di età prescolare. Abbiamo poi condotto uno studio longitudinale su un bambino che era stato esposto molto precocemente, figlio di udenti, esposto molto precocemente alla lingua dei segni nel contesto scolastico, già dall'asilo nido e nel contesto logopedico, e che poi è stato impiantato anche lui precocemente, per vedere quali potessero essere i rapporti fra le due lingue, la lingua dei segni e la lingua parlata, che il bambino cominciava in maniera più efficace a ascoltare attraverso l'impianto cocleare. I primi studi, diciamo, sulle competenze nella lingua parlata di bambini non esposti alla lingua dei segni hanno evidenziato che, nonostante i vantaggi mediamente nei bambini osservati rispetto a quelli che noi avevamo studiato anche nel passato con protesi tradizionali, restano alcuni problemi. I problemi che secondo me i clinici non devono sottovalutare, perché accanto a una, come dire, fluenza nell'espressione verbale di questi bambini, quindi nella produzione di alcune strutture del linguaggio, abbiamo evidenziato dei problemi nella comprensione del linguaggio, problemi che molto spesso vengono sottovalutati, non ci si lavora abbastanza. D'altra parte, considerando invece i rapporti fra le modalità, cioè l'esposizione a un bilinguismo bimodale in cui una lingua, la lingua dei segni, viaggia sul canale visivo-gestuale, la lingua vocale, abbiamo potuto verificare nello studio longitudinale che abbiamo fatto che non c'era un'interferenza negativa come spesso con dei pregiudizi si pensava, che ormai infatti sono superati anche a livello internazionale. Si pensava, se il bambino si impara i segni, si adagia, si impigrisce, non è stimolato a imparare la lingua vocale. Questo non è così, anzi abbiamo potuto evidenziare che la lingua dei segni, che la lingua più, forse più facile, più naturale per questi bambini, diventava un utile supporto per l'apprendimento di strutture linguistiche che viaggiavano sul canale, ancora invece deficitario sulla lingua parlata. Quindi in qualche modo un vantaggio cognitivo di questo bambino nell'essere più pronto a imparare l'italiano, perché già conosceva una lingua, una vera lingua. Quindi diciamo che è un po', se vogliamo dire, la prima volta in cui si fa un po' chiarezza su quello che era prima quella sorta di dicotomia che dicevamo all'inizio, per cui appunto sì, ci fu anche molta polemica, esatto, in questo esatto modo invece sembra essere un po' superata, che si sia arrivati a una conclusione importante. Va bene, grazie Caselli, grazie Pavani. Grazie, buonasera, arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Forse nell'orsacchiotto di Pezza, lì dentro non c'è una scheda elettronica, Federico, no, ma non è detto, non è detto, perché magari muove le manine. Qualora muovesse le mani, parlasse o facesse pipì, allora avrebbe dentro una scheda elettronica. E ormai queste schede elettroniche, che sono diffuse in un numero semplicemente spropositato di apparecchiature, bene, che cosa facciamo? Le buttiamo via? Sì, tendenzialmente questo è materiale che viene sprecato, c'è un grande sperpero, e dentro queste schede ci sono metalli pregiati. Sì, in questi anni si sta facendo un po' di lavoro, insomma, si stanno mettendo a punto diverse tecnologie per in qualche modo recuperare tutti quelli che vengono chiamati metalli pregiati. Esatto, ecco, ci sono dei consorzi che fanno il recupero, per esempio, di tutte le apparecchiature elettroniche, però qui oggi noi vediamo che si può fare molto di più, e per parlare di questa cosa abbiamo due ospiti, Angela Serpe, buonasera. Buonasera. Buonasera. E Paola De Plano, buonasera anche a lei. Buonasera a voi. Siete tutte e due dell'Università di Cagliari, ma siete anche della 3R Metal, che è uno spin-off, insomma un'azienda che viene fuori, come tanti altri casi dell'Università di Cagliari, e la 3R Metal vuole appunto lavorare sulla possibilità di un recupero attento, preciso, di questi metalli pregiati. Paola De Plano, che metalli sono? Allora, appunto la società è stata creata per cercare di trasferire i risultati della ricerca al mondo certo. produttivo. Quindi i metalli pregiati di cui noi ci siamo occupati essenzialmente sono costituiti dall'oro, argento, palladio, poi ancora come interesse naturalmente il platino, come sviluppi recenti anche le cosiddette terre rare, ovvero sia quei metalli che vengono utilizzati per esempio nei magneti abbondantemente e arrivano dalla Cina e attualmente la Cina ha posto un embargo, esatto. quindi volendo utilizzare questi metalli che sono utilizzati nell'elettronica, oltre che come ben si sa l'oro per usi comuni come la gioielleria e così via. Li dobbiamo recuperare. Perché non siamo produttori, quindi ci sono due interessi, uno di evitare di produrre rifiuti e il secondo grande interesse è quello di disporre di materiali pregiati per lo sviluppo delle nuove tecnologie. Certo. Dicevamo bene che si trovano soprattutto sulle schede elettroniche o anche in altri, non so, elettrodomestici ad esempio più comuni? Allora, si trovano nelle schede elettroniche, ma si trovano anche nei cosiddetti contatti. Quando ci sono dei contatti che non devono essere intaccati dagli agenti atmosferici, i migliori contatti sono costituiti dall'oro. Quindi si trovano anche nei telefonini, nei contatti, se lei può osservare, se vede dei contatti d'oro, quelli sono delle cose comuni, quindi non necessariamente nelle schede. Per esempio, quando si inserisce la batteria dentro a un cellulare, vediamo così. Quei 4-5 piccole placchette d'oro, quelle materiali, certo. Ovviamente in ogni singolo dispositivo le quantità sono minime, ma il problema è che appunto cosa sono 35 milioni di cellulari mediamente in circolazione in Italia. Quindi infatti a questo proposito, Serpe, chiedo a lei se ci dà un'idea di qual è la quantità proprio di questi materiali pregiati che si potrebbero recuperare. Abbiamo detto pochi grammi per una scheda, però sappiamo che insomma le schede noi ne produciamo milioni di tonnellate. Sì, allora i dati per una scheda nel caso delle schede elettroniche abbiamo delle quantità per tonnellata che vanno dai 800 kg di rame a 1 kg di oro per tonnellata di schede, l'argento intorno è variabile, insomma tra 1 e 6 kg poi ovviamente quantità di metalli di base come zinco, ferro, alluminio che sono quantità maggiori chiaramente. Cioè 1 kg d'oro ogni tonnellata, tenendo presente che stiamo veramente parlando di quantità impressionanti, è significativo. Certo. È significativo, certo. Ebbene, veniamo a loro allora. Allora, Angela Sempre, com'è che si può estrarre in modo produttivo? Perché naturalmente bisogna farlo con un processo industriale, no? Chiaramente. Come si fa? Allora, diciamo che i metodi tradizionali, quelli che vengono attualmente impiegati per fare il recupero, possono essere di due tipi, o di tipo pirometallurgico, quindi che sfrutta alte temperature, fusioni in forno ad arco e poi eventuali separazioni per via chimica tradizionale, oppure dei trattamenti cosiddetti idrometallurgici, che sono basati in genere sull'uso o di miscele di acidi forti come l'acqua regia e successiva poi selezione dei singoli metalli, oppure sull'uso dei cianuri che è il processo che è stato originariamente utilizzato e ancora viene utilizzato nelle miniere. Sono processi, quelli chimici, che risultano anche abbastanza efficienti, però in genere sono basati sull'uso di sostanze o particolarmente aggressive o tossiche. Quindi sarebbe meglio evitarle, certo. Sarebbe meglio evitarle. Diciamo che il nostro ruolo è un pochino quello di provare a proporre delle metodologie che siano al contempo efficienti, ma anche che utilizzino sostanze a minore impatto ambientale. E voi questo avete messo a punto, no? Chiaramente più è complesso il materiale di partenza, più è necessario procedere per stadi, quindi andare a rimuovere con sostanze il meno pericolose possibile via via le componenti che sono più facilmente attaccabili, come possono essere metalli come ferro, zinco, quelli meno nobili, insomma. Quelli meno nobili, esatto. E poi mano a mano andare con reagenti più specifici per i metalli più preziosi. E noi abbiamo messo a punto preparati in laboratorio dei reagenti di ossidazione che permettono per esempio di ossidare l'oro in condizioni estremamente blande, significa a temperatura ambiente, senza particolari precauzioni, e che in un unico stadio portano, sciolgono l'oro utilizzando appunto un prodotto che non è pericoloso né dal punto di vista dell'operatività di chi lo adopera né dal punto di vista dell'impatto ambientale. Ma quindi è un agente che lavora solo sull'oro, lo scioglie e quindi è possibile recuperarlo in modo isolato. Allora, ha una selettività, diciamo, non così spinta, nel senso che bisogna, come dicevo, procedere per stadi andando a rimuovere gli elementi che possono disturbare anche la fase di recupero dell'oro e che possono essere portati via, diciamo, con reagenti meno costosi. Sì. Invece la fase appunto di recupero dell'oro a questo punto agisce soltanto sull'oro, alla fine del processo è possibile recuperare sia il metallo che il reagente. Quindi avete messo a punto una procedura, come dire, in progress, mano a mano togliete e arrivate ad avere solo il metallo pregiato e agite su quello. E il risultato che ottenete è il metallo puro? Noi otteniamo il metallo puro, sì, sia per quello che riguarda l'oro, sia per quello che riguarda il rame. Quello che volevo sottolineare è che il trattamento non viene fatto sulla scheda intera, ma viene fatto su un semilavorato, cioè un triturato di schede elettroniche e queste schede elettroniche vengono già in partenza depauperate dei metalli magnetici, delle plastiche, dell'alluminio e quindi rimane un semilavorato arricchito in metalli preziosi, che è essenzialmente metallico. Voi pensate di collocare questo tipo di processo, diciamo, all'interno di una filiera dei consorzi di recupero, ad esempio, dei materiali elettronici? Così, cioè, potremmo trovare i vostri dispositivi ad hoc, esatto. Diciamo che noi ci rivolgiamo ad aziende che vogliano attivare degli impianti di produzione, quindi di trattamento. Possono essere aziende che già fanno raccolta e triturazione, quindi separazione delle componenti, oppure possono essere aziende che si dotano di questi impianti ad hoc. Ecco, però Paola De Plano, noi quando parliamo di innovazione qui a Mebius con gente che ha delle buone idee cerchiamo di vedere se possiamo contribuire a realizzare. Mi pare che abbiate dei problemi nel riuscire a portare avanti, insomma, questo progetto. Non ci sono ancora, non c'è un'audience abbastanza attenta. Allora bisogna passare, diciamo, dai risultati di laboratorio, che sono quelli che abbiamo noi, a quelli industriali, quindi ci sarebbe bisogno di un impianto pilota. Ecco. E per fare questo c'è bisogno di investimenti e di risorse che al momento noi non abbiamo e che abbiamo difficoltà a trovare. Esatto. E quindi il trattamento di questo genere di materiale viene fatto prevalentemente all'estero. In Italia ci sono solo poche ditte che lo fanno e attualmente utilizzano metodi, diciamo, convenzionali, quindi probabilmente il dover modificare tutto l'impianto risulta una cosa onerosa. Il fatto che esistano, che ci sia il problema di recuperare è un qualcosa che già è entrato nella mentalità. Sì, voi proponete una soluzione innovativa da questo punto di vista. Esatto, alternativa e innovativa rispetto al resto, anche, diciamo, per evitare che questo materiale, invece che trovare la via di trasformazione all'estero possa essere fatto qui. Concludiamo anche dicendo che c'è una legislazione che sta arrivando a livello europeo, quindi assolutamente, è già operativa. È una strada obbligata. Senza ritorno. Allora, bisogna costruire un impianto pilota. Chi fosse interessato a partecipare a questa cosa, il riferimento è 3R3, scritto in numero, 3R Meta, Università di Cagliari. Speriamo che entriate in contatto. Vi ringraziamo molto dell'interesse. In bocca al lupo davvero. Grazie. Grazie, buon lavoro, a presto. Siamo in conclusione, pochi secondi, cosa facciamo? Ricordiamo come scriverci? Ma io ricorderei, sì, se qualcuno avesse questioni, suggerimenti o anche qualche informazione da chiederci relativa ai servizi che abbiamo appena mandato in onda, insomma, scriveteci a moebius@radio24.it. E ora? Buona settimana a tutti. E a tutte. Ciao!